allora Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le fighe non sono fine eccetera, però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene, allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Amico mio, e allora come la mettiamo? Io esco pazzo quando sento un attimino da quella cloaca massima che il tuo capo orale dire delle stronzate del genere. Ti pare possibile, Parenzo, che uno si debba occupare nel 2015, nel giugno del 2015, di come passa le serate il signor Fedez o Fedez, come minchia si pronuncia? Cioè, ti pare una cosa normale che i social networks, eccetera, eccetera, siano invasi da questa vicenda della nottata con tanto di rissa e poi denuncia dei poliziotti perché lui avrebbe detto non mi proteggete, sono un VIP, ma lui nega, avrebbe anche detto polizia di merda, avrebbe scagliato una bottiglia contro un vetro che poi ha ferito una ragazza, tutto questo in una discoteca di Milano alle 4:30 di notte. Tu che fai alle 4:30 di notte? Boh, io in genere dormo, ma tu dici uno come Fedez alle 4:30 di notte può trovarsi tranquillamente alla discoteca Just Cavalli di Milano e è assolutamente ma fai, fai quello che vuole Fedez o anche il signor Bubù, non fa differenza per me, eh? Non è che se si chiama Fedez alle 4 di notte non può trovarsi al Just Cavalli Caffè. Vabbè, Fedez? Insomma, il punto è questo: a chi niente, bisogna credere, alla polizia che denuncia Fedez per oltraggio, per averli insultati, oppure a Fedez che dice di essere vittima di un complotto e in sostanza la polizia ha dei pregiudizi nei suoi confronti? Questo è l'interrogativo di oggi. Uno può anche rispondere ma sti cazzi di Fedez, anzi se lo pensate ditelo forte sti cazzi di Fedez. Ma non si sente bene, eh? Non si sente bene, però sentiamo, poi addirittura lui va sui social networks, non so dove, su Facebook, su YouTube, sui suoi canali, eccetera, a dare la sua versione. Amico mio, ragazzo, ma perché non te ne sbatti i coglioni? Sbattitene se non hai fatto niente, sbatti, non è la tua versione. Sono preoccupato, ho rispetto per le forze dell'ordine. Appena fuori dalla questura fanno uscire un'ansa dove mi dichiarano pazzo. E comunque esattamente 5 secondi dopo che io esco dalla questura per sporgere denuncia per aggressione e abuso di potere, la questura di Milano fa uscire un'ansa dove mi dipinge come un pazzo psicopatico. Ma se avete capito qualcosa, dice che è andato a fare una denuncia per abuso di potere nei confronti dei poliziotti perché non si sono identificati. Guarda, è molto meglio Montanini, è molto meglio Giorgio Montanini. Sono fissato con la sua ultima performance a Nemico Pubblico, eh. Il vitello, quello sul vitello, stupenda quello sul vitello. Non l'abbiamo sentita ieri, quella sul vitello. Io ho amici vegani, che sono vegani da 2 anni, ma sono amici miei da 15 anni. Se io sto mangiando un panino in un pub, li conosco da 15 anni, questi entrano perché 2 anni che fa. Oh Giorgio, guarda che sta vedendo quel vitello, assassino, mangia cadaveri, guarda! Quello lì prima era vivo perché non aveva diritto di vivere. Lo sto mangiando, non me lo so inculato. È diverso. Io devo dire una cosa, per convertirmi al veganesimo, al vegetarianesimo e a tutte queste puttanate, avrei bisogno solamente di una cosa. Lo stesso Montanini lo conferma, lo stesso Montanini è d'accordo con me, sentite. Secondo me i vegani hanno un problema col marketing. Sì, perché se tu vuoi attrarre il target Giorgio Montanini, vegano, non è che mi puoi mandare il tuo capo invasato con i cespugli dei capelli sporchi, le unghie nere, lo sai io, tipo San Francesco, i sandali a dicembre, mangio codoro, no, perché dico stai a casa, devo 50 centesimi, vai, vai, vai. Volete il target Giorgio Montanini? Mandatevi la più bella gnocca vegana che ci avete. Assedio al Campidoglio da parte dei 5 Stelle e alcuni movimenti di estrema destra. Che porcheria. Ma perché porcheria? Non ho capito. La le manifestazioni. Adesso le manifestazioni sono una porcheria per Parenzo. Parenzo ha deciso che le manifestazioni dell'estrema destra a Roma e dei 5 Stelle contro Marino sono una porcheria. Tutte le altre manifestazioni vanno bene, questa no. È incredibile, guarda. Sono concepite, sì, certo. Una porcheria, benissimo. Cosa dei centri sociali. Casa Pound non può fare manifestazioni, a parte che hai fatto una figura di merda. Di assediare le istituzioni. Ma fanno le manifestazioni. Dovresti essere. Ma scusa, ma dai, sei a... le manifestazioni cosa pazzesca, le fa la FIOM, con la piazza. Guarda, a me le manifestazioni, ma che non ho capito, quelle della FIOM vanno bene. E le guarda che l'altra volta che tu hai detto che non avevano l'autorizzazione, sì, avevano l'autorizzazione. Così gli amici del Giornale, sì, pare sia un quotidiano. Non dai, non dire politica. Stronzate, dai, forza. Sì, fanno un altro articolo così. Beh, hanno tante cose da scrivere, se vogliono posso. Vabbè, comunque, la manifestazione dei 5 Stelle contro Marino, c'era anche Di Battista, il quale dice che una parte del PD è il punto di riferimento del crimine organizzato. Parte del Partito Democratico di Roma è diventato il punto di riferimento del crimine organizzato e se qualcuno non è d'accordo querelasse, vediamo se se possono querelare. Toti, esperto di piccole barra grandi gaffe, il neo governatore della Liguria, che ieri a Porta Porla parla di tre marò. Non abbiamo ancora liberato i tre marò, ma i marò sono due. L'Europa non ce li prende i nostri clandestini. Questo sia chiaro, l'autorevolezza del governo Renzi è tanto autorevole che non ci danno indietro i nostri tre marò e la Francia dell'alleato socialista Hollande ci rimanda indietro a 20 miglia le persone che cercano di entrare. Poi non ho capito se l'hanno corretto o no, forse no. Allora, Totti dice anche un'altra cosa, dice, però ragazzi, o dite che non volete gli immigrati, oppure non è che potete smentire 2 secondi dopo le cose che avete detto 10 secondi prima, eh. Cioè, Maroni, non ha, avete detto che non volete gli immigrati nelle vostre regioni. C'è stata questa uscita clamorosa di Maroni dicendo non vogliamo più gli immigrati al nord, tutto questo ha scatenato una serie... Ma Maroni non ha detto questo, dai Vespa. Ha detto non vogliamo più immigrati al nord. Beh, ha detto esattamente quelle parole. No, ha detto non è una questione di nord o sud, ha detto che disincentiverà i sindaci da attuare politiche che non sono coerenti con quello che la regione chiede. Lei riesce sindaci ad ammorbidire delle cose un allora, po' più durette. Ma ha ragione Vespa in questo caso, cioè Maroni ha detto che non devono più arrivare immigrati al nord, o almeno in questa fase non devono arrivare immigrati al nord. Non è che uno, non è che ha utilizzato espressioni più edulcorate, cioè non vogliono più gli immigrati al nord. Ma cosa questo vuol dire? È il... Ma non si può neanche fare. Sì, ma lo so, ma lascia perdere, non stavo ma giudicando. Ma lo sai, ma puoi dirlo a tutti i milioni che ci ascoltano. Ma l'ho già detto, è inutile che ripetiamo cose che abbiamo già detto. Ma tant'è che detto, ma scusa, tant'è che già quando sono ieri già sono stati abbiamo assegnati. Ma è una puttanata. L'abbiamo detto, sono stati assegnati già. Beh, sono stati assegnati. Oh, sono e ti dico di più, io sono in Veneto. Sì. Ieri sono arrivati 25 immigrati in un comune vicino qua a casa mia. Sì. 25 sono scappati. Beh, è bella cosa, no, bella ma cosa. Dopo, se vuoi ti racconto di più della beffa di come è organizzato lo Stato, ma no, i migranti, ti dico subito, hanno fatto benissimo a scappare. Come hanno fatto benissimo a scappare? Ah, no, se vuoi nella seconda parte della trasmissione te lo spiego, andiamo avanti fino alle 22 stasera, lo diciamo subito. Ma no, non è vero. Fino allora, alle 22 De Luca, 30. Spettacolare ieri ma alla... Ma ti spiego, sono scappati. Sì, ma non mi rompere le balle adesso. De Luca... No, devono scappare. Devono scappare, gli immigrati devono scappare. La tesi di Parenzo è che devono arrivare senza controllo e scorazzare liberi, benissimo, sì, ottimo, benissimo a scappare, ottimo, stupendo, però. Poi argomentiamo in un minuto e 40 secondi se possibile. De Luca, poi argomentiamo. Su di me nemmeno Corrina. E io ho assistito e pagato la più violenta, infame e cinica campagna di aggressione politico-mediatica che io ricordi nella vita della Repubblica Italiana. Credo che neanche Totò Riina abbia avuto questo trattamento. Non esageriamo, adesso Totò Riina è al 41 bis. C'è una campagna di stampa, certamente alcuni giornali che sottolineano la condanna, però non è che l'hanno condannato i giornali, signor De Luca, è stato condannato da un tribunale della Repubblica. Allora, o uno dice i tribunali, i giudici sono dei coglioni, oppure c'è una condanna di primo grado. Per carità, io lo considero il numero uno, certamente sarà assolto, almeno la mia sensazione è questa, però non è che c'è una campagna. C'è una operazione politica da una parte del Partito Democratico e ci sono i giudici che l'hanno condannato in primo grado. Questo è. Il traffico è il problema. La Zanzara. Ragazzi, veramente stiamo messi male, siamo alla frutta. Andiamo subito a sentire gli ascoltatori, Gigi, provincia di Milano, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi. Ascolta Giuseppe, volevo fare una domanda a Parenzo e una a te. Parenzo, mi senti? Certo che ti sento, dimmi caro. Ti volevo dire, ma... Appena si sveglia, poi ti risponde Parenzo, non ti preoccupare. No, ma sono molto tranquillo perché sto già immagino cosa dirà questo vai, fatto. Gigi, vai. Ecco. Allora, ti volevo dire, Parenzo, sei d'accordo con me che i Rom hanno una colpa gravissima? Sai qual è la colpa gravissima dei Rom? Di aver reso famoso Salvini, una merdaccia di uomo, l'hanno reso famoso e ti dico anche perché. Perché? Giuseppe, dimmi se sei contrario. Ma intanto, Parenzo, sei d'accordo? Sei d'accordo con me o no? Ma non mi dai un argomento, posso essere anche merda, magari no, questo non lo direi. Ma sicuramente no. Lo hanno aiutato a prendere un sacco di voti, questo è sicuro. Vabbè, allora Gigi, adesso, non ho capito. Adesso ti spiego anche per me, anche perché. Ma ti sembra giusto che lui, ogni qualvolta si sposta per fare un comizio di merda a quei quattro cani e porci, deve impiegare 8.000 uomini, 8.000 poliziotti? Questo d'accordo? È un affare che riguarda il Ministero degli Interni e la protezione di Salvini, di cui non mi importa nulla. Ci sono tante altre persone scortate che secondo me non dovrebbero essere scortate. Un sacco di sprechi da questo punto di vista esistono. Salvini sicuramente verrà minacciato, su questo non c'è dubbio. Giuseppe, ma ascolta, se tu sei convinto, se tu vieni a sapere che ogni volta disposti per fare un comizio devi impegnare tutte ste forze dell'ordine, lo fai a livello privato, ti metti Gigi, no. non lo decidiamo né io né te che livello di protezione ha Salvini. Una volta Alfano ha detto che sono impegnati 8-9.000 uomini, non so su che base, forse in tutto l'anno, non lo so. Comunque, mi pare questo il problema principale, francamente. Comunque, ascolta, l'altra colpa che ha Salvini. Qual è la colpa? L'altra cosa che ha Salvini è l'aver succhiato 180 milioni di euro allo Stato dal 97 a oggi di denaro pubblico, e mi riferisco alla, perché dici al finanziamento pubblico. Sì, però questo qua riguarda tutti della Lega, questo qua riguarda tutti i partiti, cioè riguarda tutti i partiti, anche la Lega, per carità. Anche la Lega. Ma siccome lei è ospitato ieri, sembra che lui adesso, cioè gli errori che ha fatto la Lega in passato, lui ha sempre sottolineato nessuno è perfetto, solo Gesù Cristo non ha fatto errori. Allora, se lui vuole voltare veramente pagina, non deve partire dalla base del passato, deve fare una nuova partenza. Va bene, mi sembra che l'abbia già fatto. Gigi, grazie. Silvano da Padova, vai. Giuseppe, ciao Gigi. Silvano, vai. Silvano. Dimmi. Sì, ascolta una cosa, ma volevo parlare con Parenzo, volevo capire. Eccomi. Come mai... Incontratevi, siete a Padova. Spada, Tracal, i Rom, i diversi, insomma... I diversi? Chi sono i diversi? Chi sarebbero i diversi, scusami? No, nel senso, le persone che arrivano con i barconi, eccetera. Specifica meglio la domanda. Che vuol dire difende a spada tratta? Spiegami. No, nel senso che lo sento spesso per radio, eccetera. Sì. Ed lui praticamente difende sempre i rumeni, difende sempre i Rom, difende Io ho detto semplicemente oggi, ad esempio, nel caso specifico del nostro territorio, ieri sera sono arrivati 23-24 profughi portati, scortati dalla prefettura sul Tullino. Allora? Arrivati qui, scesi, dispersi, scappati via, i cittadini di questo piccolo paese li hanno inseguiti e segnalati, ripresi e messi poi in una villa. Allora, si merita quello Stato italiano, Alfano, si merita che questi qui capino. Allora, il discorso è che noi paghiamo continuamente delle tasse, paghiamo dei contributi. Non so chi ha avvisato questo sindaco, perché questo è tutto il meccanismo che non funziona, non è tanto 23 persone, che 23 non sono niente, capito? Adesso il nord non vuole i migranti, ma che cosa dipende, poi cosa intendi? Nel senso, secondo me, ragazzi, non vi accavallate, su, dai, Silvano, grazie, ho capito. Andiamo a Perugia. Roberto, vai. Assurdo. Roberto, dimmi. Allora, io volevo rivendicare il mio diritto come cittadino italiano a essere contrario all'ospitalità. Mm. Io ce l'ho questo diritto? Certo, assolutamente, soprattutto qui. Perché se la prendono tutti con Maroni, con Salvini, con Toti? Perché diciamo cose irrealizzabili. Ma chi le dice queste sciocchezze? Chi perché, le dice? Non è, perché tanto arrivano, non possono far niente le regioni. Ma qui la facciamo in modo che non è stato indipendente, lo capisci? Parenzo, mi scusi. Ma perché devi essere così idiota dal non capire che. Ma perché offendere? Io non la sto offendendo, ma è di una maleducazione tremenda. Perché se uno dice una cosa sbagliata. Vabbè, gli hai dato dell'idiota, dai. Ricambio il complimento. Che sostieni, ma non è che come persona lo sei. Gli hai dato dell'idiota, Roberto. Allora. Certo, ho detto che la cosa che hai detto è un'idiozia. Va bene. Ma ne dice tanto Parenzo, idiozie. Va bene, Roberto. Roberto. Le regioni si possono opporre, ma tanto, come vedete, non cambia niente perché la legge dello Stato è diversa da quella. No, della questo regione. È vero, però Roberto dice. Sto facendo un altro ragionamento, se mi consentite. Un ragionamento logico, Parenzo, è in grado di farlo? No, perché partendo da dati di fatto, ma poi si può discutere delle opinioni diverse. Ma i dati di fatto rimangono quelli, però. Io parlo a nome di tanti italiani. Ma non parli a nome suo, come io parlo a nome mio, ma ognuno parla a nome proprio. Ma lo fai parlare o no? Dai, Roberto, vai. Allora, io voglio rivendicare il diritto, il diritto a non essere ospitale. Va bene. Lui vuole dire non li dobbiamo fare arrivare, ci siamo rotti i coglioni, esatto. Non vuole che le arrivino. Vabbè, Parenzo risponde, vengono lo stesso. Io dico un'altra cosa, si deve fare. No, facilissimo non è facilissimo per niente. Bisogna fare in modo di applicare le regole di un paese civile, lo ripeto per la 150esima volta. Un paese civile che certamente spende un sacco di soldi, perché spende più soldi di quelli che spendiamo noi per tutte queste operazioni che facciamo, che si chiama Australia, dove c'è un cartello enorme con la cartina dell'Australia, una roba come un divieto impressa sopra, e c'è scritto no way, e ripeto per la 200esima volta che il respingimento, non far entrare nessuno, è il più grande gesto umanitario che si possa fare. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Ehi, voi due malvissuti, state al vostro i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. La Zanzara. Che non pensavi, è da tempo che non pensi più, da quando sei stato abbandonato dalle tue cellule cerebrali. Questo è il problema. A Milano, caro Parenzo, con un decreto della Corte d'Appello c'è stata la trascrizione delle nozze contratte in Argentina tra un ragazzo italiano e una giovane transessuale argentina. Don't you cry, don't you cry no more. Si fanno passi avanti, si fanno passi avanti, lentamente si fanno passi avanti. Bene. Ci sono dei signori dell'Arcigay del Friuli che se la prendono con il sottoscritto, se la prendono con il sottoscritto. I fatti, buone ragioni. No, non c'è nessuna buona ragione. I fatti sono questi, li riassumiamo velocemente, non è una cosa, come dire, che riguarda il grandissimo pubblico. Sono stato ospite di una rassegna che si chiama Pordenone Pensa in questi giorni, è stato anche Parenzo ieri sera. Allora, a un certo punto si presenta un sindaco, il sindaco di Cordenons, a presentare un dibattito, dove ero presente anch'io, questo sindaco, il sindaco di Cordenons, così era un tipo piuttosto bizzarro, molto simpatico, camicia a fiori, braccialetti, linguaggio, parlava di omofobia, un linguaggio un po' particolare, ma insomma che mi ha fatto pensare che poteva essere omosessuale, ma non l'ho nemmeno detto all'inizio. Che non è un crimine, almeno da parte mia, non è come essere identificato come Totò Riina, come un mafioso. Dopodiché alla fine, quando si discuteva di coppie gay, ho fatto una battuta, ma non è che il vostro sindaco è un po' omo, ho detto, no? E beh, ci sono state delle risate, eccetera, eccetera. È successo un putiferio. Cioè, per questa battuta vengo trattato come omofobo, perché non si può dire, vabbè, mi hanno fatto pensare i braccialetti, la camicia a fiori, il linguaggio... dall'Arcigay del Friuli, cioè l'Arcigay del Friuli contro la Zanzara, cioè contro il sottoscritto, anzi, perché ho fatto delle battute omofobe, delle risatine omofobe. Ma vai a cagare, va. Cioè poi lo dicono a me, capito? Dicendo anche che sono quello che intervista i peggiori omofobi italiani, questo è vero. Tacci, se qualcuno si è offeso, tacci e basta, dai. Scusa, uno si offende. Ma no, ma chi si offende? Al limite si deve difendere, si deve offendere, no, il diretto interessato. L'Arcigay a nome di chi? A nome di chi? L'Arcigay del Friuli. Ma uno si può offendere. Ma sì, battuta. Ma va benissimo, ma dai. Per dire, su. Scusate. Ragazzi, ma se non si possono fare nemmeno la battuta, è finita, dai. Capito, ma se uno si offende, vabbè, offende, ma io ho capito, ma tutti si possono offendere allora, ma dai. No, tutti no. Basta dire scusa, dai, ho sbagliato. Su, ragazzi, dai. Ma io scusa un cazzo, ma non devo chiedere scusa a nessuno, ma dico, ma siamo impazziti, scusa, va bene, ma tu che chiederesti scusa pure quando per la tua ombra, cioè, no, ma io non devo chiedere scusa a nessuno, scusa, ho fatto una battuta davanti a una platea sul fatto che una persona, perché aveva un certo tipo di accento, ma perché no, aveva capito, una camicia a fiori e dei braccialetti, mi sembrava omosessuale, che è per me un merito. Merito no, ma insomma per me è una cosa uguale al fatto di essere eterosessuali. Ma devi dire scusa, insomma, no. Ma no, ma non è che se uno si offende uno deve avere per forza ragione. Ma come vivi? Cioè... No, ma io vivo benissimo, io vivo semplicemente che a casa mia. Se cioè, uno se uno si offende, hai sbagliato. Chiedo scusa, a no, prescindere. Posso dire, guarda, vivi male. Scusa, chiedo scusa se qualcuno si è offeso, questo sì, perché non lo vedo legittimo. Ragazzi, della a grande immagine. Richiesta, a grande richiesta, Radio Padania. Sicuro. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. All'attacco di Parenzo, Radio Padania. Mi ha colpito l'atteggiamento di quello zero totale di Parenzo, che quando è stato all'Assemblea dei Giovani Industriali con Salvini, non ha fiatato, non ha alzato la cresta, non ha detto niente. C'era presente Matteo, che probabilmente gli avrebbe risposto per le rime alle sue insolenze. Fai vedere quanto è bella la tua terra. E poi a sera ha detto una cosa che secondo me sarebbe da querela, perché questo qui continua a parlare così a ruota libera, perché nessuno lo querela, perché sarebbe anche ora di farlo, dicendo così che quella specie di Radio Padania era paragonata a un cesso, a una fogna. Ma ha detto, ma no, ripensamenti. Padania bella e libera. Andiamo in provincia di Udine da un signore che si chiama in maniera piuttosto bizzarra, ma non vorrei essere, come dire, accusato in questo caso, non so di che cosa, di attentato ai nomi o di razzismo dei nomi. Ararad, mi scusi signore Ararad se ho detto che ha un nome bizzarro, perché qualcuno magari potrebbe incazzarsi qui. Ciao simpatici asinoni, sempre asini ma simpaticoni. Sì, sì, sono Ararat, sono armeno, nato e vissuto a Khartoum in Sudan, arrivato in Italia con un passaporto a Tarbo. Senti, come fate a parlare male dei nostri fratelli e sorelle animali? Ma chi parla ieri male? Ma io non parlo assolutamente male degli animali, cioè ne parlo in maniera diversa dagli esseri umani. Cose, ti insegno alcune per te sono cose. Uguali agli esseri umani. No, ascoltami bene. Beh, prima di tutto, guarda, ti parla uno che vive con 45 cani da slitta, vado a fare. Ma tu sei, puoi vivere con chi vuoi, se ti va di vivere con 45 cani da slitta. No, ma se a te va di vivere con 45 cani da slitta, amico mio, ma sei liberissimo di farlo, ma nessuno ti dice niente. No, ma ieri tu hai detto alcune cose. Tu hai detto che se la tua casa fosse invasa da alcuni topi, tu li uccidi. Beh, normale, che faccio? Scusa, amico mio, a casa mia invasa dai topi, che faccio? Ci parlo con i topi, che faccio? Scusi, signor topo, può uscire? No, ma no, tutti i doti di un normalissimo gatto e vedrai che i topi non li hai più tra le palle. Ma, okay, ma se io non voglio il gatto? Per le formiche ci sono essenze, l'eucaliptolo, milioni di altre cose, vai in internet, su Google troverai. Le essenze per non ucciderle, le essenze. Ma se io non voglio i rimedi naturali e voglio usare lo spray per uccidere le formiche, qual è il problema? Sono un assassino? Allora fai un attentato a noi tutti quanti, capisci? Ammazzando le formiche faccio un attentato a noi tutti. Ma sì, perché usi delle bombolette che comunque fanno danni e si sa perfettamente che fanno danni. Ma non ci saranno le bombolette, ci saranno altre cose. Voglio sterminare formiche e topi che invadono casa mia. Per fortuna non succede ogni giorno, però anzi non succede quasi mai. Ci sono formiche e topi che invadono casa mia, io li voglio uccidere. Secondo te commetto un omicidio? Questa è la follia, ma capito? No, ma non caro Ararat, caro Parenzo, Cruciani, mamma mia, ti ho confuso con mitico Parenzo che ci sta scusando. Vabbè, allora il discorso non è di uccidere niente, il discorso è di rispettare gli esseri viventi che abbiamo sulla terra. Sì. Attenzione, io non sono un animalista, non sono vegano, però ho molta simpatia per chi riesce a gestire questo stato d'animo di cose, quindi il rispetto tra esseri viventi, credo, ma questo che l'ho capito benissimo. Io non dico niente, dico semplicemente che non è che mi metto ad ammazzare i cani per strada, sto dicendo semplicemente, stavo parlando di topi e di formiche. Se per te topi e formiche sono uguali agli esseri umani, amico mio, bisogna che vada un medico bravo. I gatti? Perché non ma io non ce l'ho fatto con i gatti, ma non voglio il gatto a casa, ma che vuoi, ma non è mica un obbligo, cioè, ma guarda che sei incredibile. Cioè, non sono incredibile, dico solamente che ci sono rimedi per fare le cose senza essere violenti, perché se ma non è violenti, fatto, ammazzare non una formica non è una cosa violenta, dai su, tu ammazzi un sacco di formiche e non te ne rendi conto, dai. Un giorno tu, caro Cruciani, diventerai una formica e vedrai cosa succederà. Vabbè, quando diventerò una formica, una formica me ne farò una ragione. In ogni caso, guarda, io ho imparato tutto ciò dai miei amici eschimesi e indiani in Alaska. Ottimo, benissimo, se uno vuole andare a abitare lì, ottimo, va bene, fa un'altra scelta. No, ma ascolta, ma un po' di ascolto, per cortesia. Dimmi, loro naturalmente non possono essere vegani, perché lì non può, cioè non esiste. Loro devono andare a comunque caccia per alimentarsi. E loro mi hanno insegnato una cosa importante. Che t'hanno insegnato? Prima di tutto noi qui nel cosiddetto ricchissimo mondo occidentale che si nutre comunque di animali che sono stati tenuti in una orribile prigionia. Grazie mille. Gabriele da Roma. Salve Cruciani, buonasera. Dimmi. Allora, io prima ho sentito un ascoltatore che parlava, diceva giustissimamente che lui non vuole rivendicare il suo diritto alla non ospitalità. Sì. Dunque, io rivendico il mio diritto alla non solidarietà, quindi non voglio che le mie tasse siano usate per curare le persone che stiano male, non voglio che le mie tasse vadano a coprire la cassa integrazione, queste cazzate di... dei reddito di cittadinanza, basta, cioè io sto bene fisicamente, sto bene economicamente, non me ne fotte un cazzo se ci sono persone che stanno male, io voglio che le mie tasse vengano usate per altre cose, non voglio la solidarietà, abbassa la solidarietà, diventiamo tutti cattivi. Sì, però non è questione di cattiveria qui, cioè... No, ma io dico che... Vabbè, io capisco la sua provocazione, cioè capisco la tua provocazione, Gabriele. Tu dici, io, come quello dice, non voglio che le mie tasse vengano usate per mantenere gli extracomunitari, per i campi rom, eccetera, eccetera. Anch'io che sto bene non voglio che le mie tasse vengano usate per curare chi ne ha bisogno. Per esempio, faccio una fatica a mangiare in un certo modo. Poi ci sta chi si sfonda di grasso animale e poi deve essere curato, obeso, e perché io gli devo pagare la sanità? Oppure pensiamo un attimo a Toti, che ha detto che lui non vuole gli immigrati in Liguria. Benissimo, è giusto, però anche i campani e i siciliani devono rivendicare il loro diritto a non aiutare con le loro tasse i liguri quando vengono alluvionati. Basta, tu dici, se si va avanti così uno può rivendicare di non utilizzare che il proprio denaro non sia utilizzato per i cazzi suoi. Va bene, Gabriele. Silvana, provincia di Brescia, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Buonasera anche a Parenzo. Semplicemente un piccolo intervento. Sono molto indispettita per l'atteggiamento che Parenzo ha a volte nei confronti degli interlocutori. Chiedo scusa, ma sono disturbata da un ritorno. Vabbè, adesso io di come gli interlocutori si rapportano a me, quindi sono non ho capito Silvana, perché ha dato dell'idiota a quella persona di prima per questo? Sì. Esattamente, perché non è un unico caso capitato, è proprio per me, uno stile per me... che da qualche tempo lui mette in atto. Però Silvana, scusami, da questo punto di vista io certamente non lo posso attaccare. Se lui gli viene di dare dell'idiota a qualcuno, ma fa benissimo, figuriamoci se, posso bacchettarlo io, ma di che parliamo? Fermi tutti, allora, ferma lì. Ciao simpatici asinoni, sempre asini ma simpaticoni. La Zanzara. Bravissimi tutti quanti, eccetera. Però siete due conduttori da festival dell'ovvietà. Allora, come sapete, c'è un presidente della Commissione Cultura della Camera che si chiama Galan, il quale ha gli arresti domiciliari nella sua villa, il quale prende ancora lo stipendio perché non è stato cacciato dalla Camera dei Deputati, non è stato mandato via perché la condanna deve essere ancora definitiva, per cui ha fatto ricorso in Cassazione nonostante il patteggiamento per corruzione, eccetera, eccetera, eccetera. La pena di quasi 3 anni per il signor Galan. Ha patteggiato, cioè in sostanza ha ammesso la sua colpevolezza, più o meno. Ed è ancora presidente della commissione cultura alla Camera perché non c'è il potere per farlo decadere. E, al Corriere del Veneto, se non sbaglio, Galan ha detto qualche giorno fa che tornerà, una volta scaduti i domiciliari, tornerà alla Camera. Sì, l'ho vista, ce l'ho. Ora, questo qua è nel suo, come dire, nel suo pieno diritto tornare alla Camera, nel senso che se uno ancora non è decaduto, anche se condannato, torna alla Camera. Quando decadrà da deputato per la legge Severino, e allora andrà via dalla Camera. Uno, sì. Allora ragazzi, decidiamoci: o torna e un minimo lavora fin quando non va a decadere, oppure che fa? Piglia i soldi, almeno torna, fa qualcosa, no? Comunque Di Battista si scaglia contro di lui e dice che rimpiangerà i domiciliari. Ma che gli vuoi fare Di Battista? Gli vuoi menare? Questa roba succede soltanto in Italia. Comunque gli daremo una degna accoglienza, insomma, per lui. Lui rimpiangerà i domiciliari. Ma che vuol dire rimpiangerai i domiciliari? Cioè, no. Oltretutto, non so se sapete, Galan in questi mesi che è stato al gabbio prima e poi ai domiciliari in una villa faraonica che si sarà senz'altro comprato anche con i quattrini che si è rubato, lui ha appunto patteggiato per corruzione affare Mose, ma ha continuato a percepire due indennità, una come parlamentare della Repubblica, l'altra come, pensate, presidente della Commissione Cultura. L'Italia, che vanta il maggior numero di siti patrimonio dell'UNESCO, ha un presidente della Commissione Cultura, Galeotto, che ora fa il gradasso e dice: io torno perché ho tutti i diritti. Il Movimento 5 Stelle farà opposizione e quantomeno lo farà vergognare per quel che ha combinato. Abbiamo con noi, ritorno alla Zanzara, Oliviero Toscani. Ciao Oliviero. Ciao ragazzi, state bene? Come andiamo? Ciao. Nel frattempo di che cosa avete parlato? Di froci, gay, zanzare, formiche, cani, mamma mia. Tutto, froci, animali. Oliviero, forse se vai d'accordo con me, io adesso sono purtroppo, sono a parlo, no, purtroppo no, perché sono dai miei e quindi sono contento. Ma voglio dirti, raccontarti questi 30 secondi, a te agli ascoltatori acruciani, a Padova ieri sono arrivati 23. Sì, ma l'hai 23. Già detto, che coglione. No, no, voglio dire a Toscani. L'invasione, 23 profughi, 23 cazzo. Madonna, come fate? 23. Sant'Antonio sviene. Mamma mia, un'invasione. Mamma mia. 23. Finché non te li portano, finché non te li portano, finché non te li portano davanti a casa tua, Oliviero, finché non te li portano davanti a casa tua, Parenzo, tu va tutto bene, naturalmente. Va tutto bene. Davanti a casa mia, cioè in Italia, c'è una sfilza di ladri, imbroglioni, mafiosi, che rubano, che ha rubato miliardi e nessuno si lamenta. Vabbè, Parenzo, continua. Anche gli immigrati, sono gente italiana che hanno rubato persino gli immigrati. Ma sono due cose diverse, Oliviero. No, diversa cosa. Ma sono due cose diverse, dai, su, sono due problemi diversi. I furti, capirai. Scusami, Oliviero, i furti che vengono fatti da gente che si dovrebbe occupare di cooperazione invece ruba i soldi allo Stato. E fare una class action i Rom. Ma quale class action? Contro i Roma e contro i politici. Comunque, cioè, non ho capito, sei d'accordo? Sei d'accordo? A questo incredibile cambiamento epocale, sì. Un giorno la pagherà. Chi la pagherà? Non ho capito. Tu la pagherai, tu e Salvini, questi qua che si oppongono. In che modo la pagherò? Scusa. No, perché questi qua c'è niente da fare, arriveranno, diranno questo qua era uno stronzo, non ci voleva te. Non ho capito che fanno, cioè l'impiccagione in pubblica piazza. No, non sono così ignoranti come noi. Non ho capito. Il futuro dell'Italia è in mano agli immigrati, cioè diventeranno. No, ma bisogna stare attenti, che sono delle cose irreversibili, ragazzi. C'è niente da fare. Cioè, siamo essere intelligenti. Cioè, siamo destinati a diventare minoranza, tu dici. Come, ma come non è che mi è rimasto 25 a Padova, ma che minoranza del cazzo! C'è tantissima gente intelligente che vuole lavorare, che rischia la vita per cambiare la vita, per andare a trovare un lavoro, gente che ha voglia, molto più intelligenti tante teste di cazzo che vanno nelle nostre università a perdere tempo, dai. Vabbè, ma ho capito, ma ragazzi, però voi confondete le cose, che ci possono essere persone intelligenti o più intelligenti degli italiani o dei ladri italiani. No, più intelligenti degli italiani, gente intelligente. Gli immigrati sono di per sé, per definizione. Scusami, Oliviero, secondo te gli immigrati sono per definizione intelligenti? Non ho detto questo, ma c'è anche sicuramente della gente in gamba, così come sono stati tutti gli immigrati che sono andati in giro per il mondo, c'è stata della gente in gamba che ha fatto la fortuna dei paesi dove sono arrivati. Vabbè, comunque, tu sai che ci sono i governatori del nord, Toti, Zaia, Maroni, che si oppongono e dicono basta immigrati nelle nostre regioni. Ma perché prendono i voti degli imbecilli che non capiscono il futuro? Ah, per questo dici? Sì, per questo. Lì. Cioè, Salvini perché ha preso tanti voti con tua grande soddisfazione? Sì. In questa? Salvini, conosci Salvini? Salvini chi è? Salvini, leader di un partito che si chiama Lega Nord. No, Salvini, credevo fosse una marca di carta igienica. No, dai, su, dai. Perché sabe Salvini, sì, effettivamente è una marca. Vedi che tu non stai attento alle cose. Esiste una marca che si avvicina, Salvelox. Sì, del nord, proprio, una marca patata. Allora, sai chi è Salvini o no, più o meno? Ma è uno che è così, che dice delle cose, non so. Ha detto che bisogna fare una specie di cordone di persone oneste e di italiani davanti agli alberghi che... Sì, ma le persone oneste non sono solo mezzo che pensa Salvini, attenzione. Ci sono delle persone oneste che forse pensano un pochettino più in modo profondo di Salvini, attenzione, perché sennò qui... abbiamo bisogno di siamo un popolo di vecchi, abbiamo bisogno di giovani che vengano qua a lavorare, che pagheranno le tasse. Ho capito, ma bisogna che vengano Cruciani, chi ti pagherà la pensione? Sì, però scusami, bisogna che queste persone vengano in modo regolare sono d'accordo, è che non siamo capaci di fare in modo regolare. Il problema è questo, non dobbiamo prendercela con gli immigrati, siamo noi dei teste di cazzo che non riusciamo a organizzarci, farlo in modo regolare come fanno i paesi civili, e questi dovrebbero essere i Salvini e i politici invece di dire le cazzate che dicono. Vabbè, magari questi qua propongono. Va sempre bene quando gli altri propongono di bloccare gli sbarchi. Per te non è possibile? Ma secondo te questa è una ragione è irreversibile. Cosa è irreversibile? Cosa? Fermare. Non si potrà fermare. Beh, dobbiamo arrendere. Rendiamoci conto. Vabbè, allora alla tua regione, la Lombardia, che non vuole gli immigrati, che dici? Ma il signor Maroni, tu sei immigrato? Vabbè, non è la Lombardia, è il signor Maroni che sta sui Maroni, a tanti lombardi, attenzione. Non è che tutti i lombardi sono come i Maroni, Tu dici? Infatti uno dice, ma hai rotto i Maroni. Maroni, ma hai rotto i Maroni. Ma tu non vai in Lombardia, vai ogni tanto, sì? Ogni tanto vado. Sì. Devo andare a usare la carta igienica, no? Anch'io. Ma dai, su. Come che... Parenzo, no? Cioè, come Parenzo. Cioè... ogni tanto devi andarti a usare la carta igienica in Lombardia. Ma proprio... vado a Milano, scarico lì e poi vado via. Ma per cui no, la Lombardia per te con Maroni è una regione... De... Quando c'è Maroni che parla e i Salvini, ragazzi, è una vergogna. Ma guarda, che... sono imbarazzato di essere lombardo quando sento parlare quelli lì. Perché? Perché di sì, cosa ti dica? Vabbè, ho capito, questi qua dicono invece che vogliono proteggere la loro regione da un ma ulteriore... Ma proteggono? Non possono, è irreversibile, sono antistorici, non capiscono il futuro. Mm. Infatti guarda che facce che hanno, non hanno vissuto niente. Ma perché non fai un boicottaggio nei confronti della... Non andiamo in Lombardia, non vado più in Lombardia finché... Ma no, ma io non ce l'ho con la Lombardia, ce l'ho con i testa di cazzo io, basta. E chi è la testa di cazzo? Maroni? Ma no, con qualsiasi testa di cazzo, non è che siano solamente in Lombardia. E che ne so, Maroni gli ha detto testa di cazzo? No, non ho detto che Maroni è testa di cazzo, ho detto che ci sono le teste di cazzo che dicono le cose e mi stanno sulle palle. E chi sarebbero queste teste di cazzo? Che... Oh, Madonna, milioni. Precisiamolo. No, centinaia di migliaia. caro mio. Vabbè, senti, ma... Sai, questi qua votano anche, Chi, dici? Dimmi. Cioè, le teste... Chi vota la Lega sono delle teste di cazzo. No, dico la gente, anche teste di cazzo votano. Io penso che... Beh, ho capito, no, ragazzi, ma per forza che farei... L'operazione pazzesca che questi hanno messo in piedi, anzi, Lazzarona, l'operazione Lazzarona, sì, è che questi governatori fanno credere di avere un potere che non hanno. Perché siccome la Lombardia non è uno Stato indipendente che decide di non accogliere, che può decidere di non accogliere i pro... Fanno una propaganda per cui mentono... Beh, ma certo, ma quello è chiaro. Cittadini. Ma quello è chiaro che non possono evitare nulla. Ma comunque, fanno politica, fanno politica. Cosa che non puoi fare, Parenzo, ma scusa, io non sono qua a difendere gli immigrati, niente, io sono qua a dire attenzione, sta succedendo qualcosa, esatto, o lo capiamo, esatto, o lo capiamo quello che sta succedendo in questo momento al mondo, esatto, o se no facciamo un grande sbaglio se cerchiamo di fare quello che dice Salvini e Maroni. Sarà un grande sbaglio perché verranno sotterrati. Da chi? Sotterrati da chi? Dagli immigrati. Dagli eventi. Sotterrati storia, dagli immigrati. No, dagli immigrati, dagli eventi sociali e umani che stanno succedendo. Non c'è niente da fare. Fermi la tu. Cosa è grandissima. O la capisce o rimane un provinciale lombardo. Dico, ma che studino Carlo Cattaneo e Pietro Verri, questi qua, che erano dei lombardi incredibili, illuminati. Ma cosa è successo in quella regione? Che è successo? Appunto. E che ne so, dimmelo tu, che è successo? Appunto, un rincoglionimento. Una volta c'era Carlo Cattaneo, adesso c'è Salvini. Una volta c'era Pietro Verri, adesso c'è Maroni. Fermi tutti. Pensa che differenza. Fermo. La Zanzara è il più grande bar d'Italia. La Zanzara. Siamo qui, la Zanzara, con Oliviero Toscani, scatenato contro la Lega, contro Salvini, contro... Ma no, contro la Lega, contro beh, quelli anche, che non dai, capiscono su il futuro. Beh, ma anche, no, dai. È semplicemente per il buon senso. Vabbè, senti... no, vabbè, ma è così. Io voglio capire una cosa... la pensione, Cruciani? Quanti anni hai, Cruciani? Beh, 49 quasi. Chi ti pagherà la pensione quando arriverà l'età? Ma anche chi? Gli extracomunitari? Chi me la paga? No, no, certo, lavoreranno e ti pagheranno la pensione. Vabbè, pensione. Ma anch'io la paga un sacco di gente, non ti preoccupare con i soldi che do. Figurati, ma figuriamoci. Comunque, Australia... Australia forever. Australia forever. Guarda che l'Australia è pieno di immigrati, ragazzi, non esiste. Eh? Se ma ci che c'entra? Solamente gli indigeni? Hai presente gli indigeni? Ma capito, certo, è stata fondata. Hanno la stessa faccia che ha Maroni e Salvini. Cioè gli aborigeni, dici? Esatto. Perché che faccia hanno? Gli aborigeni. Salvini e Maroni sono due aborigeni. Perché? Sulle facce. In che senso la faccia? Scusa, la stessa. Guarda le foto. Vabbè, che c'hanno? Sono un po' scimmieschi. No, lo so, io guardali. Sono insomma, un po' scimmieschi. Ti ricordano un po' Maroni e Salvini insieme. Perché? Dai. Cioè gli uomini primordiali, dici te. Ma gli non uomini, lo so. Gli uomini primitivi. Aborigini australiani. E che c'hanno uguale a Salvini e Maroni? Scusami. Assomigliano un po', siccome, sicuramente. Ma perché? Perché sono primitivi in questo senso? La testa. No, okay. Ma dici, parli dell'Australia. Hai preso le grandissima. Il più sbagliato del mondo. Grande. Respingere umanitario. Bellissimo. Respingere cosa? Respingere degli immigrati. Ascolta, è il gesto. Spingi qua, è impossibile. Ma com'è impossibile, ma ragazzi? Ma di che state parlando? Ma non è vero, si fa in altri paesi. Ma lasceranno con te, io anzi, gli lascerò la sua tua foto. Quando verranno a rompermi i coglioni a me, era lui, non ero io, attenzione. Lascerò la tua foto e verranno a cercarti a casa. Dice, questo qua non ci voleva. Beh, ma perché non sei stato a qualche gay pride questo fine settimana? C'è anche a Roma sabato il gay pride. Tante di quelle foto di gay pride, ne ho fatti tanti gay pride, ho fatto anche un libro io, Non conosci il mio libro. Però non ti piace, sì, come no, certo. Però non ti piacciono, ormai sono finiti. No, devo dire che non mi piacciono queste espressioni così, cioè, perché fare il carnevale? È una cosa seria. Cioè, è una carnevalata, secondo te? Sì, ma perché deve essere... Allora, io faccio l'avvocato, faccio la carnevalata. Forse gli avvocati dovrebbero fare questo, anzi, gli avvocati piacerebbe molto travestirsi mediamente, tutti questi professori. Sai, i bocconiani dovrebbero fare il gay pride, ecco, perfetto. Tutti il gay pride è una festa da bocconiani. Perché dici? Perché vanno tutti vestiti in maniera alla fine uguale. Sono sempre vestiti di blu come i loro padri, non cambia niente, dopo 40 anni sono uguali ai loro padri, come quelli di giovani di Confindustria, hanno tutti con l'aereo un po' moscia, con tutte le... Sono tutti uguali, tutti degli automi. Abbiamo bisogno di immigrati, quelli giovani, pieni di energia, di voglia, anche di bellezza, invece di questi vecchie lumache lombarde, dai. Cioè, tu dici, sono anche più belli gli immigrati. Beh, ce n'è di fantastici, dai. Cioè, tra un immigrato e Salvini è più bello un immigrato. Tu guarda Galan, un bel nero immigrato, cosa dico? Tu che sei gay. Ma, tra Galan e un nero immigrato? Beh, dipende, insomma, c'è gente che preferisce Galan, no, magari. Tu che te ne c'è gente, ho chiesto a te. Cruciani. Ma non e lo so. Tu mi respingi un bel nero immigrato e ti tieni Galan, ma fai tu, o ti tieni Maroni, Madonna, dai. Ma ho capito, ragazzi, però. Senti, devi cominciare a ragionare un pochettino anche più egoisticamente. Se tu ragioni, sono troppo altruisti Salvini e Maroni facendo quello che vogliono fare. Ragionate egoisticamente. C'è anche, anche le donne d'Italia, ringiovanirla, rimbellirla. Abbiamo bisogno. Facciamoci trombare degli immigrati. Facciamoci trombare donne italiane, fatevi trombare da neri immigrati. Così. Ma non è vero, donne buone dei paesi tuoi è una gran cagata. E dunque, avuto quello che ti dico. Aprire la finestra e trovare la più bella donna che c'è. Ma abbia fare dei grandi viaggi. Io mi ricordo per trovare quelle che belle ho fatto. Appunto dico le donne italiane dovrebbero dire grazie all'apertura delle frontiere. Cioè, dovrebbero. Ma anche gli uomini, figurati. Perché? Ma anche gli uomini, ci sono delle ragazze nere fantastiche. Ma cioè, per cui se tu consigli alle donne italiane di accoppiarsi con gli immigrati, con gli ex. Ma non consiglio, che ne so? Con quello che è bello, non con Maroni. Ah, appunto, quello che è bello è per te, il bello sono gli immigrati. Però un immigrato, un bel giovane nero, Maroni, scegli tu. Insomma, ma credo, magari c'è gente che preferisce ancora Maroni, che tra l'altro pare avere un sacco di belle donne intorno. Pare avere un sacco di belle donne intorno, signor Maroni. Non so sì, se hai letto. Perché c'è il potere. Non so se hai letto sui giornali. Indiscrezioni, parli di vero sesso, di vero piacere sessuale, cioè il vero sesso, di potere di queste cioè il vero sesso hai... un nero dà più sesso, fa più sesso rispetto un bel nero fa più sesso rispetto a un italiano. Non più, non ho detto più, comunque forse è più interessante una bella nera di una lumaca bianca, dai. Dici alla fine tu preferisci le nere? Sì, le nere. No, sì. Non preferisco, mi piacciono le belle donne. Questa è come dice, preferisci bionde o more? Sì. Mi frega niente se bionda o mora, se è bella. Vabbè, quello sì. Vabbè, adesso le brutte, e con le brutte che ci facciamo, scusa? Le lasciamo a Maroni, cosa ti dire? Come le do? Vabbè, le brutte. Sei razzista? Adesso sei razzista con le donne brutte, Oliviero, dai. Ma no, ma la Lega piacciono, dai. Cosa, le brutte? Ma sì, non è che siamo. Guarda che quelle che stanno intorno a Maroni sono belle donne. Che si distingue per il grande gusto, dai, il grande senso estetico. Ma perché? Che c'hanno le donne della Lega? Sono... Non le donne della Lega, i leghisti. Beh, Salvini va con la Isoardi, per esempio, come sai. Sì, va bene, potere. Solo potere, sì. Secondo te, solo potere. Vabbè, ma Sgarbi, sindaco di Milano, come lo vedi? Perfetto, lo voterei subito. Sì, davvero? Sì, no, scherzo. Ma guardate che Sgarbi è troppo serio, è così serio. No, vi posso dire... Beh, serio, adesso, con lui. Serio. Guarda, è così come litighiamo su dei principi, perché litighiamo... perché ci crediamo seriamente, sì. Fino a litigare con l'amico, no? Però tu dici farebbe il sindaco di Milano meglio di chiunque altro. Ma Sicuramente, finalmente ci sarebbe qualcuno che ha un senso dell'estetica, della cultura, dell'umanità. Sì, della però è un pasticcione pure lui, è uno. No, gli mettiamo vicino un paio. Ma io faccio il tifo. Un paio di ragionieri, sai questi qua che un paio di ragionieri. Lui è un paio di ragionieri, sindaco perfetto. Sindaco perfetto. Perfetto. Non so se gli hai fatto un favore con sta cosa, però. Ma non so se gli ho fatto un favore o no, però mi hai chiesto. Cioè, tu che fai i favori in giro. Io no, per fortuna. No. Ciao Oliviera, presto, ciao. Parenzo, dagli curalo Parenzo. Ma che curalo un cazzo. Insomma, non curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due. Ciao. I love you. I like the La Zanzara. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare e chi avrei corteggiato. Andiamo a Treviso, Leonardo, vai. Ciao. Dimmi. Allora, un'idea semplice e la sintetizzo parecchio. Sì, sì. Allora, abbiamo sentito anche prima questi immigrati che in teoria sono tutti bravi, vengono su, li vedi che sono qua da qualche mese, sanno già parlare italiano. Sono abbastanza giovani, mi pare. Allora, io un'idea semplice. Li prendiamo, li mettiamo dentro le caserme, con loro consenso naturalmente, e creiamo un esercito. Come creiamo un esercito? Gli facciamo fare il servizio militare. Ma che vuol dire gli facciamo fare il servizio militare? Servizio militare, come l'abbiamo fatto noi. Come ma si perché? Perché non abbiamo bisogno di un esercito di immigrati, cioè tu vorresti fare una specie perché di legione straniera italiana così con gli immigrati. Cambiano la loro idea, non si fanno influenzare dall'ISIS e da delle idee malsane, ma imparano un po' di cultura italiana o europea. Comunque farli militare non è una brutta cosa. Va bene Leonardo, grazie. Gennaro da Roma, vai Gennaro. Gennaro? Pronto? Dai, dimmi. Sì, ciao. Ciao, dimmi. Volevo dire una cosa per chiarezza e sgombrare il campo di alcuni equivoci. Dato che si parlava di accoglienza immigrati, Lombardia e Veneto sono quelle che nel rapporto alla popolazione, esclusa Val d'Aosta, ne accolgono di meno. È uscita oggi una ricerca sulla Voce che riprendeva i dati del Ministero dell'Interno. Sì, ma già ieri l'abbiamo detto. Sì, che sì. Sono... In secondo luogo volevo dire che comunque anche tu Crusani, che sei un collega di Dodd, tu per correttezza dovresti comunque diffondere in maniera un po' più corretta i dati, perché parli come se ci fosse un'invasione. Io non sto parlando di nessuna invasione, sto dicendo proponi di andare a sparare barconi io che partano, certo, assolutamente sì, ma non è che lo dico io, lo dice l'Utwak, lo diceva anche Renzi fino a poche settimane fa, lo diceva pure il Presidente del Consiglio. Tu vivi a Milano, no? Il problema che è un problema Milano, è un esempio, poi ti spiego, un problema molto più di livello di entità inferiore a quello a cui ti riferisci tu. A Milano negli ultimi due anni sono passati 60.000 profughi, sai quanti ne sono rimasti? 200. Sì, no, ma il flusso dell'immigrazione è in netto calo, sempre i dati del Ministero dell'Interno stanno calando ogni anno. Dai, 170.000 nel 2014, sì, nel 2013 Gennaro, erano molti di più. Scusa, mi puoi... lascia Gennaro. Sono dati, quindi non è l'importante. Sì, ma è un lavoro il punto... che è giornalista, quindi numeri. Scusa, innanzitutto non mi devi insegnare tu come fare il giornalista o no, innanzitutto. La prima cosa che ti dico, caro Gennaro, è caduta la linea, ma dopo la ripiglieremo. Amelio dalla provincia di Lucca, dai, Amelio. Vai, Amelio. Io chiamo perché voglio fare il tifo per Parenzo, ha ragione. Grazie a lei sono diventato razzista di tutti quelli che chiamano. Vorrei fare una domanda. Abbiamo gente che non vogliono i rom, non vogliono gli immigrati, però salviamo le formiche, i conigli, eccetera. La mia domanda è, ma secondo voi se questa gente trombasse di più farebbe gli stessi discorsi? Ma chi dici? Chi? Questa gente trombasse di più chi? Quelli che chiamano, che sono così tutti iper. Sì, però togliti dal viva voce, Amelio, togliti dal viva voce, ti prego, togli dal viva voce. No, l'auricolare, sono... viva voce, quello che è, dai. Non c'è assolutamente nulla, sono assunto. Vabbè, ma non ho capito, Amelio, non ho capito perché le persone allora, non possono... quello che volevo dire io era questo. Secondo me, quello che dice Parenzo è giusto, è quello che sento dire, sto diventando un razzista, ma non un razzista da rovescia, perché qui abbiamo della gente che vuole i rom vanno bruciati, gli immigrati vanno affondati e poi vogliamo salvare le formiche, i conigli, eccetera. Ovviamente la mia è una provocazione, ma quello che voglio dire, a questa gente, se trombasse di più, farebbe gli stessi discorsi. Era solo questo. Non lo so, può darsi, che le frustrazioni, può darsi che le frustrazioni sessuali siano una parte del, no, di quello che sta sotto alcuni interventi. Stefano da Padova, vai Stefano. Ciao, sono Stefano da Padova. Volevo semplicemente dire una cosa. Ho perso un po' il giro perché volevo intervenire quando già... Vai, forza. No, un discorso molto semplice, io sono molto ricco e vi telefono dal club di Albarella, dello Sporting Club di Albarella. Ah, lo conosco bene. Sì. Non ci sono mai stato, dire che ma di tutti questi discorsi... Come? Non sono mai stato lì, ma lo conosco, è un'isola privata di proprietà. Un'isola peraltro... privata piena di ricchi, di molte MILF. Non che sono mai molto stato lì, ma lo conosco. No, vabbè, perché sei uno snob, ma, mi stai diventando... Non mi hanno mai invitato, Parente, ma... Guarda, dottor Parente, non so neanche se è laureato, dottor no, Parente. Non è laureato. No. Vabbè, allora? Ma veramente? Ma ho capito, ma non è mica... Avete almeno tre lauree, comunque guardate, andiamo molto al sodo, molto, molto semplice. Sì, ma me, tu quanto sei ricco? Sta... Non ho capito, quanto sei ricco? Sono molto ricco, molto. Beh, per stare ma che vuol dire sicuro? Molto ricco? Oh, si sa, insomma, si sa. Anche che mestiere ricordo fai? Che vedevo molto ho visto anche un paio di volte il Missoni, no, come si chiama il fotografo lì? Toscani. Ah, Toscani, professor Toscani, esatto. L'ho visto non è professore. Non è professore neanche lui. No, certo, non è professore. Per perdere tempo con voi altri. Vabbè, comunque, io sono un professionista. Sì, devo ma di che? Verità. Di che io cosa? Delle gazze? Super cazzola, delle prematurata con scappellamento. Bravo, esatto. Cultura di base. Senti una cosa, no, parlo con Cruciani perché... Dai Cruciani, perde tempo. Lì dovrebbe venire, invece di mandare Parenzo in giro per il mondo, lei... Ma io non però mando io nessuno. Lei veramente in giro per il mondo. Fosse per me dovrebbe star Roma barricato, figuriamoci. Dai, forza, va. No. Figurati. Visto che Parenzo lo manda in giro per il mondo, non so che cazzo fare, mangiare i formaggi prelibati. Ma cosa cazzo vuoi fare a Venezia domani? Non ho capito. Convegno della Confindustria. Hola! Cioè tutto per tanto è finita la pacchia, tutto fa tranne che lavorare. Cioè tutto fa tranne che lavorare. Cioè tutto fa tranne che lavorare. Io propongo una cosa sul prestito delle banche alle imprese. Ma non me ne fotte nulla e non ce ne fotte nulla nemmeno a noi, cioè questo è il problema. Stefano, vai, forza. Ma allora, comunque il discorso è molto... Io faccio una proposta. Cruciani viene lì, cos'è, in Via Massena, dove siete, quello che è? Via Massena c'è un'altra radio. Via Massena c'è un'altra radio. Io lo so, c'è ragione. Vabbè, quello che ho, sto bevendo uno spritzetto, per cui... Sì. E lei, professore, che è il grandissimo gourmet, lavorativo. Un grandissimo gourmet della gnocca, perché lei lo sa che io la sento. A me piace la figa, ma non è una cosa strana. Lo so. Lei deve lasciare quello studio lì, che sarà sicuramente bellissimo, e venire a trasmettere dal nostro Sporting Club, che è una cosa meravigliosa. Guardi, io non trasmetto da nessun'altra parte se non in uno studio radiofonico. Tutti gli altri posti per trasmettere non li sopporto, io lo dico subito. Comunque, volevo tornare al problema. A me, non avrei scusato martedì. No, essendo un ricco borghese, quindi molto simpatico a Parenzo, perché Parenzo ama queste persone qua, ricche, benestanti, colte, sono molto... Assolutamente. È un idiota come dimostra lei, no, però... No, insomma, assolutamente, no, è vero, hai ragione. Non offenda Parenzo, perché guardi, le mani in testa, come si dice a Padova. No, non è un'offesa, non è dell'idiota, un idiota. Guardi, ma che tal, che ha detto da essere idiota? Anche se non è laureato, sono lei, non offesa. Da essere una persona educata, quale sono io, capisce? Dottor Parenzo, no, lei è molto... guardi, mi scusi. No, guardi, io non tollero l'idiota, perché io non ho offeso nessuno. E mi meraviglio di lei. No, guardi. Ma che ha detto? Parenzo, scusa, non ho capito che ha detto. Dottor Parenzo, guardi, sono 30 anni con la storia. No, guardi, chiudiamo qui perché lei è stato estremamente maleducato. Vabbè, Stefano, che volevi dire? Lascialo perdere, che volevi dire? No, adesso mi fa... No, guardi, lei è una persona estremamente arrogante. Vabbè, Stefano, dai, parla con me, dai, che volevi dire? Su. No, io chiudo il discorso perché non tollero essere... Va bene, d'accordo, ti ha dato dell'idiota. No. Adesso andiamo avanti, no, su, no, dai, no, sei no, abituato, no, su. Io, tu hai detto, allora, sei ricco, sono un uomo ricco, che cazzo di lavoro fai? Che lavoro fai? Io sono un professionista. Ma di che? Professionista di cosa? sono un medico. Sei un medico, benissimo. Allora, tu sei partito però dicendo io sono in questo club molto esclusivo. No, chiudiamo col discorso perché mi spiace. Ma qualche volevi dire? Non... tre minuti che stai in onda, di quello che volevi dire. Eppure te hai perso tempo, amico mio. Me ne sto benissimo più dentro la mia isola. Di quello che succede fuori me ne sbatto i coglioni, hai capito? Sì. Me ne sbatto i coglioni. Sì. E da domani che sto presentando la dichiarazione di redditi, sono 30 anni che do il mio 8 per 1000 alla comunità ebraica e lo toglierò perché non tollero. No, no, non mi interessa. Arrivederci, grazie. Pronto? La Zanzara. Attento al DDT, sai? Allora, caro Parenzo, c'è una signora, una sessuologa, una ginecologa milanese che si chiama Stefania Piloni, la quale sostiene delle cose. Le riassumo qui perché voglio fare una specie di appello, voglio fare una specie di sondaggio tra le nostre numerosissime ascoltatrici. Questa sessuologa, che si chiama Piloni, ripeto, ginecologa, magari la sentiremo nei prossimi giorni perché voglio capire se è esperta della materia, cultrice della materia oppure no. Questa signora Piloni, insomma, cosa dice? Dice che spesso è meglio un pisello piccolo che un pisello grande. Mi sembra una questione fondamentale, no? Beh, no? Non credi? Beh, per chi vive quel problema sicuro, però... No, per tutti. Tutti fanno sesso, tutti sono interessati alle dimensioni del proprio organo genitale, tutti, uomini, donne, tutti sono interessati a questa cosa qua, tutti. E chi fa finta di non essere interessato sbaglia. Cioè mente più che sbaglia, mente. Allora, i buoni motivi per apprezzare un pene piccolo sono i seguenti. Innanzitutto, sostiene sempre questa signora, non sono io, che insomma è sempre sull'attenti, cioè ha più possibilità di essere eretto, cioè l'erezione è più semplice. Chiaro? Chiaro? Voi che siete in ascolto, tassisti, popolo della radio, gente con i bambini, non abbiate paura di scandalizzare i bambini, non tappate loro le orecchie, devono sapere anche queste cose i bambini. Esiste un pene, esistono le dimensioni del pene. Insomma, si mantiene in erezione in modo più semplice, più facilmente, no? Beh sì, perché insomma quando i corpi sono più cavernospaziosi è evidente che c'è più difficoltà a far passare magari il sangue, no? A far transitare. Vabbè, è più facile il sesso orale, è più facile per una donna, è più facile il sesso orale. Sono i buoni motivi per cui apprezzare un pene piccolo. La fellazio sarà un'operazione più semplice. C'è meno possibilità di prendersi la cistite. Ti permette con più facilità di provare il sesso anale. Anche questa... Ti stai convincendo, non ho capito. No, non mi sto convincendo. Voglio capire dalle donne, tantissime che ascoltano la Zanzara, se è vero o no. Semplicemente da come lo dici, sono che ti stai convincendo. No, non ti sto. Hai questo tipo di problema tu? Hai un problema? Ma non è un problema. Siccome ne parli con questa passione, quindi vuol dire che ti stai autoconvincendo, però va benissimo. No, assolutamente. Mi scrivono, non è vero comunque. Il Kama Sutra. Già i primi messaggi. Allora, il Kama Sutra si può sperimentare più facilmente. Non è vero. No, non è vero. Comunque, con tantissime O. Non è vero, le donne lo dicono. Sì, beh, certo. Il Kama Sutra si può sperimentare in maniera più sicura. Capito? In maniera più sicura. E basta, mi sembra che abbiamo dato tutto da questo punto di vista. Non è d'accordo la signorina Valentina Nappi. Signora Valentina Nappi, che ieri ha regalato qui alla Zanzara molte perle. che facciamo riascoltare subito. Innanzitutto ci ha comunicato una cosa, che vuole mandare fuori legge la Lega. Certe istanze non dovrebbero essere rappresentate politicamente. Cioè dovrebbero... Meglio la repressione a questo punto. La repressione, cioè dovrebbero mandare fuori legge la Lega, dici? Sì, anche se poi forse si formerebbero altri movimenti. Farò porno finché avrò la forza sui miei quadricipiti. Quando potrò fare su e giù sui quadricipiti, io farò porno. E vabbè, ne prenderemo atto. Ho un visto per gli USA, per gli Stati Uniti, per doti di straordinaria abilità. Questo è vero, non è una cazzata, è vero. Nel visto c'è un tipo di visto particolare che lei ha, con un numero che identifica le abilità particolari, cioè il culo. Se diventa premier in Italia, che fai? Te ne vai? Sì, io ho un visto uno, del visto artista americano per straordinaria abilità. Quindi sì. Quindi il mio culo è autorizzato dagli stati, dal governo degli Stati Uniti d'America, per girare il porno lì. Ma viva la sodomia! Allora ragazzi, io sono contro il matrimonio. Io farei unioni civili per tutti e togliere il matrimonio di mezzo. Ma a me non piace il matrimonio. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, il traffico. No. La Zanzara. Mi informano che Gianluca Buonanno è svenuto al Parlamento Europeo, però pare sia meglio, per cui non ci dovrebbero essere problemi. Svenuto durante un intervento al Parlamento Europeo, Gianluca Buonanno, io sorrido perché ovviamente sta meglio. Questo mi dispiace. Ma l'avevo sentito anche stamattina, mi ha annunciato grandi colpi a sorpresa al Parlamento Europeo, mi aveva detto guarda, combinerò qualcosa, poi andava di fretta, e invece è svenuto. Questo mi dispiace. Maurizio da Forlì, vai. Dopodiché un'altra notizia che invece mi rende felice è che Jean-Marie Le Pen è indagato in Francia, sì, per riciclaggio e un'evasione fiscale da 2,2 milioni di euro. Ma non credo, perché ti rende felice? Non ho capito. Su un conto svizzero. Ma perché ti rende felice? Non ho capito. Non capisco perché ti rendono felice. Mi rende felice questo. A parte che è indagato e dunque bisogna vedere come va a finire questa questione. Il riciclaggio e evasione per 2,2 milioni di euro trovati su un conto svizzero. Di 1,7 milioni di euro in... Ma ho capito, ma ragazzi, a parte che non ce ne sbatto una mazza di Jean-Marie Le Pen, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, della sorte di Jean-Marie Le Pen non frega nulla. Prima cosa che ti voglio dire: il signor Le Pen, che ha tuonato contro gli immigrati, un razzista, eccetera, la purezza della Francia, eccetera, è un evasore fiscale. Ancora no, Maurizio da Forlì, vai. Capito? Vai, Maurizio, dimmi. Io vorrei dire solamente, perché fate parlare quell'organismo monocellulare che una volta faceva il fotografo e adesso non so che cavolo stia facendo, perché è una persona veramente con due facce, è come un sedere senza buco, inservibile, non si usa proprio. E lui è uguale. Toscani, stai dicendo. Sta dicendo delle gran cazzate, solo perché è una persona che gli lasciate parlare, Noi lasciamo parlare tutti, ovviamente a modo nostro. No, noi non lasciate parlare tutti. Ma io ci ho discusso parlare prima, ci ho litigato. Ma che dici? Dai, su, Maurizio, non dire stronzate, dai. Ho capito, ma lui è... No, ti sento poco. Ciao. Abbiamo con noi, caro Parenzo, un infermiere decisamente antiabortista, anzi molto antiabortista, che è vicepresidente del comitato per il no alla 194, cioè vorrebbe cancellare la legge sull'aborto, almeno da quello che si sa, e che sabato farà una manifestazione davanti, da solo, farà una preghiera davanti all'ospedale di Bologna, vestito da infermiere contro gli aborti. Si chiama Giorgio Celsi. Celsi, buonasera. Sì, buonasera. Come sta? Bene, grazie. Senta, io vorrei capire una cosa. Lei sta tranquillo, eh? Come, scusa? No, no, io mi... Prego, prego. Ma parla, siamo alla radio, devi parlare. Cioè, se non parli, non so. No, intanto cominciamo a capire, poi dopo parlo. Perché allora, sappiamo cosa fa questo. No, che fa? Fa l'infermiere ed è antiabortista. Sarà nel suo diritto di essere antiabortista oppure no? Cioè, oppure non si può essere antiabortista. Io sono a favore dell'aborto. Ma io sono un infermiere, quindi devo essere per forza come infermiere. In che senso, scusi? In che senso per forza? Perché il mio lavoro non è quello di uccidere i bambini. Lei ha diritto di essere antiabortista, la cosa che non ho capito. Aspetta. Prima ha detto una cosa fondamentale. Ha detto. Siccome, siccome sono infermiere, faccio infermiere, sì. Non è di sopprimere bambini con l'aborto, assolutamente. Scusi, quindi neanche di essere d'accordo in questo. Scusi, Celsi, sì. Secondo lei tutti gli infermieri dovrebbero essere come lei? Sì. E quelli che non e quelli che non lo fa? Di Ippocrate, cioè non è non che credo proprio, perché altri... sono inventato. Allora sono tutti nel, secondo lei, nell'illegalità gli infermieri. Chi fa gli aborti, ma per legge c'è la legge che lo permette, ma non sono nell'illegalità come gli infermieri, ecco. Cioè, ma in che senso? Cioè, tutti gli infermieri secondo lei andrebbero arrestati? No, nel senso che l'aborto è un delitto. È un delitto. Quindi chi lo fa non fa il suo dovere, che non è certo quello di sopprimere i bambini. È un delitto secondo lei? Scusi, è un delitto secondo lei? Non secondo la legge italiana. L'aborto è un delitto, sì. No, l'aborto è un diritto secondo la legge italiana, per fortuna. È un diritto, ma è un delitto per la natura, per lei... uccidere un bambino l'aborto. Sì, ma che sia uccidere, diciamo, un qualcosa che per alcuni è un bambino, per altri non è ancora un bambino. Perché c'è qualche donna che non concepisce bambini, concepisce cose strane, non lo so. Vabbè, però il tema non credo che sia solo questo. No, cioè, no. Una donna concepisce figli, esseri umani. Scusi, secondo lei la legge, ovviamente, 194 andrebbe abolita e l'aborto cancellato, giusto? Tornare come prima, che era possibile solo in caso di pericolo di vita della donna. Solo in caso. E se uno viene stuprato? Se una donna viene stuprata? Non si aggiunge male ad altro male. Cioè, è come deve... il fuoco con altro fuoco. Cioè, se risponde alla violenza, si può rispondere con l'amore, non con altra violenza. Se no, è come asciugare il mare, l'acqua con l'acqua. Vabbè, non lo so, lei ci riuscirebbe. E dunque, secondo lei, una persona che viene stuprata deve per forza mettere al mondo il bambino? Può darlo in adozione. Se... Comunque lo deve mettere al mondo per forza, anche se non vuole. Secondo me sì, perché... Cioè, deve essere obbligata. Se no commette un delitto. Aggiunge male ad altro male. Cioè, che colpa ne ha quel bambino del peccato che ha fatto il padre? Beh, amico mio, però se uno non vuole... qui... No, ma la cosa grave non mi pare questa. Però. E qual è la cosa grave? Questa è la sua opinione, per fortuna la maggioranza degli italiani... Cioè, secondo lei le donne che abortiscono dopo che fine fanno? Cioè, secondo lei avranno... A parte che è un dramma comunque l'aborto, anche per chi è a favore dell'aborto è comunque un dramma. No, non ho capito la manifestazione che farà, questo non ho capito. Beh, c'è una manifestazione in cui prega. No, non è una manifestazione la mia, è una preghiera, 9 ore di preghiera... Sì. Fuori dall'ospedale maggiore. Ma come sarà a casa sua? Come sarà vestito? Scusi. No, guardi che c'è un diritto costituzionale. L'articolo 19 dice che tutti hanno diritto. No, su questo ha ragione, però. Liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma. Sia in pubblico che privato. No, su questo ha ragione, anzi secondo me chi ha vietato quella manifestazione, perché è stata vietata e spostata in un altro posto, ha commesso un errore. Io non capisco non perché il signor Celsi, che pure io come dire, considero fuori dal mondo, però anche le persone secondo me fuori dal mondo possono essere, devono essere libere di esprimere la loro opinione. Allora, non è così. Non si fanno gazzarre davanti agli ospedali. Ma che c'entrano le gazzarre davanti agli ospedali? Perché tenere un rosario in mano e far gazzarra? Spiego, quella manifestazione, quella indetta a Bologna di questo. Scusi, parliamo, che cosa ha insieme a questo rosario lei? Come manifesta di solito? Come è vestito? Ho un rosario in mano e una croce con delle riproduzioni di bambini feti. 3 settimane nel grembo materno, a 3 mesi. Allora, riproduzione che vuol dire? Riproduzione che vuol dire? Cioè di foto? Sono dei... Mica saranno feti veri? Di plastica, riproduzioni fedeli di un bambino nel grembo materno di 70 giorni. Ecco, è una pagliacciata e una gazzarra. Ma perché una pagliacciata e una gazzarra? È una gazzarra. Ma scusi, quello manifesta come gli pare, scusa. Scusi, qui c'è scritto l'articolo 19 di fare propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto. Sotto qualsiasi forma, io ho scelto una forma pacifica, è un crocifisso che con sofferenza decidono allora, di Senti un attimo, Celsi, tutte Celsi. Le manifestazioni degli animalisti che mettono fuori gli animali smembrati, non lo so. Aspetti un attimo, Celsi, voglio capire da Pierenzo perché non può manifestare davanti all'ospedale, signor Celsi. Posso posso dirglielo questo? Dimmi, dimmi, certo. Allora, la gazzarra che lui e altre... Ma che gazzarra? Prega, vuole pregare, ha detto, adesso non esageriamo. Io prego, c'ho il rosario in mano. Vabbè, allora la gazzarra... Io la gazzarra. Vabbè, allora? La gazzarra che loro hanno intenzione di fare, che per fortuna il comune ha vietato per ora... No, purtroppo ha vietato. ...consiste nel fatto di mettersi davanti a un ospedale, il reparto di ginecologia in particolare, dove donne con sofferenza decidono di andare a compiere una operazione sul loro corpo. Vabbè, che vuol dire questo? Già, scusi, appunto, io voglio evitarle questa sofferenza. No, scusi, scusi un attimo. Ma non è che vuole impedire fisicamente alle donne di entrare? Io voglio aiutarle a evitare una sofferenza, perché io è nata gioia qualche giorno fa che a Giussano una coppia ha deciso di non abortire, è nata gioia. E sono felice e contente queste due persone. Allora, davanti all'ospedale è un luogo sensibile dove non si organizzano né manifestazioni né gazzarre. Non è una manifestazione, è una preghiera. Se lei va con quelle immagini, vada, preghi pure. Qual è l'immagine, scusi, che traumatizza voi? Ma se già lei va lì con delle immagini... È la realtà di un bambino a tre mesi? Per morirle dal punto di vista psicologico, perché questo è, può creare anche un trauma nelle persone che ci vanno. Ma che vuol dire? È una gazzarra. Ma non è una gazzarra, adesso non esageriamo. Allora non dobbiamo dire la verità su niente. Allora non facciamo. Quella non è la verità, quella è la sua verità. Lei quando parla di fame nel mondo non mette un bambino che muore di fame in televisione. Lei allora cosa facciamo? Di fare non lo mettiamo. Mettiamo il bambino americano che mangia l'hot dog, che magari capiscono meglio le persone. Allora fermo, fame nel mondo. Fermo lì, Celsi, che abbiamo la pubblicità. Torniamo subito con Giorgio Celsi, infermiere antiabortista, eccetera, eccetera. Ormai è tutto degradato. Ma la zanzara. Allora, fra poco l'infermiere antiabortista Giorgio Celsi ci deve lasciare, però volevo sentire Michele da Firenze. Michele da Firenze, vai Michele. Michele? Michele? Michele, Michele, Michele, non c'è Michele. Michele, mi senti? Sì, vai, dimmi. Pronto, sì. No, ti ascoltavo prima quando hai detto, hai nella stessa frase sei riuscito a dire dimensioni del pene e bambini. Sì. Quindi proprio volevo... Proprio così per curiosità, visto stavo che citando, spesso, stavo no? citando ti ascolto spesso, però sì. Fammi finire. E dimmi, dimmi. Sera, altrimenti ti ascolto spesso e ho detto ma stavolta mi sembra abbia raggiunto proprio l'apice. All'interno della stessa frase hai candidamente accostato le dimensioni del pene con evocando anche la parola bambini, no? Cioè proprio una no, roba. No, guarda, assurda, stai facendo ovviamente un accostamento ridicolo perché non no, ho fatto te. No, l'hai non fatto ho fatto te. Nessun accostamento. Ah, no, ho detto mamme, ho detto mamme, fate attenzione, no. Fate ascoltare anche ai bambini ma no, bambini qua. Intendevo ragazzi, ovviamente non bambini di sai 4 anni, problema, di 5 anni, di 8 io. Anni, di 9 anni, che il è chiaro, problema, no? Sì, 8, 9, vabbè, tanto anche 12 è la stessa identica. Perché qual è il problema? Sai qual è? Che quando si parla di dimensioni intere, sì. Sì, vai entri in confusione. No, io ho citato una cosa, amico mio, uno studio, ho citato uno studio, una cosa che ha detto una sessuologa, e non ho detto, non ho... Sì, no, capito, però allora... lo studio è fatto per gli adulti, no? Mi sbaglio o no? Sì, no? Sì, ma anche per gli adolescenti. Sì, però dico, nel senso, nel momento in cui tu lo... no? Voglio dire... parli di questo studio, poi sì. Metti anche i bambini a ascoltare, mamme fate attenzione, fate ascoltare anche no, i bambini. No, ho detto fate ascoltare, su dai. Vabbè, ho capito, minimizzi, alla fine minimizzi. Ho detto però non state lì a tappare le orecchie, perché sì, sì. Di queste cose ne dici tante, no? Sì. Però volevo dirti una roba, darti un suggerimento. Dimmi caro, dimmi. Se posso, Ma certo, sei qui, siamo qui ad ascoltare. Che quando appunto si apre questo argomento delle dimensioni del pene, tu entri in uno stato di confusione totale. Io questo non ho mai capito perché, e oggi incomincio a farmi un'idea. È un argomento che non riesci a dominare con tranquillità, non riesci ad essere. Come no? Ero tranquillissimo. Ma quale sarebbe la tua idea? Non l'ho capita bene perché. Ma la mia idea è che non sei assolutamente tranquillo su questo argomento. Quindi forse meno ne parli e meglio è. Perché non ho capito, secondo te se uno ce l'ha piccola ha un problema? Ma guarda, non è tranquillo, non è tranquillo, cioè sei razzista nei confronti di chi ha di chi ha. Io no, io non sono assolutamente. Anche ne so, magari è razzista nei confronti di chi aveva dimensioni non enormi. Io Ma no, io credo che... No, e allora perché dice un problema? È un problema in generale. E allora perché lo dici? Fai immaginare che invece sia un problema. Sì, no, nel senso che questa è la tua tecnica di riportare all'altra persona. No, riportare all'altra persona. Stai dicendo, mi sembra che no, hai qualche problema ad affrontare questo argomento. Evidentemente per te è un problema. Sì. Eventualmente no, per me no, per me anzi, a voglia se ne può parlare tranquillamente. E anche per me se ne può parlare tranquillamente. Però magari senza richiamare l'attenzione delle mamme a far ascoltare. Ma sì, ma quello era un modo di dire non spegnete la radio, cioè in questo senso volevo dire questa roba qua. Se non l'hai capito, peggio per te. Ciao Michele. Ciao. Allora, eravamo con Giorgio Celsi, infermiere antiabortista, che andrà a pregare sabato davanti all'ospedale di Bologna, se non sbaglio. Sì, all'ospedale maggiore. All'ospedale maggiore di Bologna. Celsi, io volevo capire da lei un'altra cosa, ma lei ha già detto una cosa per me orribile, cioè che le donne stuprate, devono, questo è francamente orribile. Meno le donne male che anche tu alle volte. Ma no, ma che c'entri? Io dico che questo qua ha il diritto di manifestare e di dire quello che vuole. No, ha diritto di manifestare. Sicuro, mica l'ho negato. No, per te no. No, siccome no, per te no. Anche tu, io ho detto un'altra cosa. Adesso si contraddice. Celsi, scusi, che cosa ha detto Parenzo due minuti fa? Non può manifestare quel che vuole, ma non davanti all'ospedale. Beh, quello, di quello si sta parlando, però dove... Il signore dove devo io pregare. Vabbè. Non è che può decidere lui dove devo andare a pregare. Io voglio capire una cosa. Siccome i bambini si fanno facendo sesso, Celsi, no? I bambini si fanno facendo sesso. Lei mi sembra contrario al sesso, come dire, come lo intendiamo noi oggi, cioè il sesso un po' libero, no? Cioè per lei si dovrebbe trombare, scopare solamente per fare figli, ma o no? Sessualità responsabile, insomma. Che vuol dire? Cioè se uno tromba perché gli piace trombare non va bene? No, io ho un altro parere della sessualità. Cioè lei è sposato? Sì. Ha figli? Sono separato. Si è separato pure, dunque? Ha due figli. Sì, ha due figli. Scusi, questi due figli... Separato con la Sacra Rota. Con la Sacra Rota. Vabbè, con l'ipocrisia della Sacra Rota, bravo. Sono stati dei problemi grossi. Sì, no, ma io non... Che problemi, scusi, no, per capire. Adesso stiamo parlando di aborto o di... No, ma che problemi ha... dell'ipocrisia. Che problemi ha avuto lei con la... Per capire, col suo matrimonio, impotenza, che ne so, di solito ci si separa per questo, violenze, cose... No, altre problematiche ci sono state. Vabbè, diciamolo, no, siamo qui. Della mia ex. Ah, problematiche da parte... Sì, comunque... che non si è sposata con giusta causa, non cosciente del sacramento del matrimonio. Quindi cioè, non si è sposata cosciente... Non consapevole di quello che faceva, quindi... Vabbè, questo è un come fa una a sposarsi senza essere cosciente di sposare? È un escamotage! Lo so che è un escamotage, ma ho capito, ma va anche rivelato. Non siamo ipocriti fino in fondo, scusa. Per la Chiesa ci sono due... Ma come fa una a sposarsi senza essere consapevole, amico non mio? Non è finalizzato a far figli, e quando uno non si sposa, non... conscia dello statuto del matrimonio. Ma capito, come fa uno a non essere conscia? È un trucco, un escamotage, una buffonata da parte della Chiesa, è evidente, no? O no? No, non è così. Hanno ritenuto che c'era... Vabbè, comunque, quelli sono affari suoi. Sono affari suoi, però io voglio capire una cosa. Secondo lei, che succede alla donna che abortisce? Sindrome post-aborto, nella maggioranza dei casi. Cioè, nella maggioranza dei casi... Che non l'ho inventata io, cioè che, vabbè, quello esiste. Regionale, quindi... è una malattia riconosciuta, cioè? Una sindrome riconosciuta che porta gravi conseguenze alla donna. Cioè? Con conseguenze immediate, anche postume, anche dopo. Quindi cioè cosa? Anche, all'inizio ci può essere la perforazione dell'utero, le emorragie. Ma quello dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico? Psicologico, io ho curato tantissime donne lavorando in psichiatria che hanno abortito. E che effetti hanno avuto? C'è un aumento dei suicidi, c'è la depressione. Ho capito, questo non sarà mica una cosa comune al 90% delle donne che abortiscono, amico mio. La maggior parte. Ma questo non mi risulta, francamente. Sì. Comunque. Vada a vedere gli studi che hanno fatto. Quindi. Scusi, secondo lei, poi chiudiamo, ma gli omosessuali sono malati? Si possono curare, sì. Si ma possono adesso curare. Non stiamo parlando della... No, ma interessante, si possono curare, che vuol dire si possono curare? No, è interessante, siccome c'è tutto un dibattito su questa cura o no agli omosessuali. Ma secondo... io adesso... sto parlando di aborto, non voglio entrare in altre discussioni. No, ma si possono curare, che vuol dire? Come si curano secondo lei gli omosessuali? No, posso, scusami. Ci sono i psicologi, eh? Cioè gli psicologi per curare, sono malati e dunque... Nella maggior parte dei casi è possibile... E Luca, che malattia Luca è? Era gay, l'associazione Luca era gay, sono di sì, la conosciamo, come si sono fatti curare e adesso stanno evitando altre persone... Ma questi... E se lei avesse un figlio omosessuale lo farebbe curare? Sì, se ci sono i presupposti, sì. Ma curare che vuol dire curare? Cioè, ma se uno ha voglia di metterlo nel posto a un'altra persona, qual è il problema? Cioè, qual è il punto? Non ho capito. Perché per lei è un peccato grave il fatto se uno vuole fare sesso con un altro uomo, una donna vuole leccare un'altra una donna. Una lesbica può portare una cosa pazzesca. Ma adesso stavamo parlando di aborto. No, ma ho capito. Ma adesso... scrive giustamente Se volete, in un'altra occasione parliamo del resto. Ma adesso. Scusi. No, però è interessante perché lei è molto. Cioè, alla fine non ha paura di dire quello che pensa, al contrario di altre persone. Però adesso stiamo parlando di aborto. No, però mi era così. Mi era presa la cosa perché avevo letto una cosa sua sul Gay Pride. Dunque, mi era partita la tangente su un altro argomento. Anche sulla Bonino, per esempio, lei ha detto delle cose che non crede che il fatto che abbia un cancro. O sbaglio? Sì, sì, molto probabilmente. Anche perché lei crede ancora nei digiuni di Pannella, per caso? No, ma non ho capito. Secondo lei la Bonino non ha avuto un cancro? Secondo me è molto difficile che un cancro sparisca così, a meno che proprio Francesco non ha fatto un miracolo, allora verrà riconosciuto. Però ho dubbi sul... Ha dei dubbi? Su sia quello che dice la Bonino che sia quello che dice Pannella. Quindi... Senza avere visto nulla, lei ha dubbi. Io impazzisco per queste persone qua. Voglio chiederle una cosa, perché giustamente... possiamo avere dei dubbi o... Ma sì, ma certo, assolutamente, per carità. Uno può avere dei dubbi pure sul fatto che, ne so, che sono le 20:45 e 37 secondi, però forse questo orologio funziona male, che effettivamente è probabile. Comunque, Parenzo, che vuoi dire? Non ho capito. No, perché mi scrive Davide Romano, giustamente, sì. Dice, chiedete a quel signore lì, ma una lesbica incinta di un gay può abortire? Ma che vuol dire una lesbica incinta di un gay? No, chiede, a Romano ha ragione. Questa domanda mi chiede. Non è, in nessun caso è lecito, in nessun caso. No, ma una lesbica... Per questo signore sta parlando, perché non è stato abortito. Cioè, tutti noi stiamo parlando perché non siamo stati abortiti, quindi, è vero. Alla fine cioè, è come avete avuto la possibilità voi di vivere, tutti i bambini concepiti devono averlo. Vabbè, Celsi, lei è un numero uno, ciao, arrivederci, ciao, ciao. Arrivederci, ciao, ciao. Numero uno dei pazzi, ovviamente, ecco. No, è numero uno dei adesso, pazzi. Però consentire che uno così possa manifestare. Ma perché? Non ho capito. Qual è il problema? Non violenti davanti a un ospedale dove vengono fatti degli aborti. Beh, questo io non ho detto che sono contro. Lui può manifestare. Ma ragazzi, ma questo può fare quello che vuole. Ma se lo facciamo parlare noi perché non può manifestare? Non ho capito. No, ma dico, allora, davanti appunto. A un ospedale. Vabbè, sarà davanti a un ospedale, farà i cazzi suoi, dai. Forza. Hanno fatto bene a dirgli di farla gazzarra. Vada, falla da un'altra parte. Vada davanti a una chiesa. Vada nel suo giardino di casa. Ma no, ma l'effetto, tu che sei, come dire, maestro in queste cose qui, sai che cosa vuol dire andare davanti a un ospedale e provocare con dei finti feti o mettersi lì con la croce? Ma allora non rompere i coglioni, dai. La provocazione quindi è violenta. Ma che violenta? Adesso hai cominciato a dire che le provocazioni sono violente. Vivi di provocazioni. Alcune provocazioni, tipo questa, è violenta. Su, hai vivi. Vivi. Di farlo davanti all'ospedale. Vivevi di provocazioni. Allora. Buon anno che sviene, Parlamento Europeo. Beh, scusi perché non mi sento molto bene. Da Lione per venire a Strasburgo io vedo le centrali nucleari praticamente nel confine con l'Italia da parte della Francia. I'm feel bad, excuse me. Mr. Buonanno, are you okay? Could somebody help him please? Just a second. We're going to get some help to Mr. Buonanno. È crollato per terra, oh. Parenzo, hai sentito? No, poveretto, io gli auguro pronta guarigione. No, ma io rido perché sta bene, perché ci hanno detto che sta bene. No, piace. Posso pensarla all'opposto di lui, poi mi piace, poveretto. Ma no, ho capito, però è curiosa la cosa, no? Poi ma non capisco... Gli auguro pronta guarigione. No, aspetta, risentiamo un po', non capisco qual è cosa diceva su I'm coming from Paris. Che cos'è che diceva? Beh, scusi perché non mi sento molto bene. Da Lione per venire a Strasburgo io vedo le centrali nucleari praticamente nel confine con l'Italia da parte della Francia. I'm feel bad, excuse me. Mr. Buonanno, are you okay? Could somebody help him please? Just a second. I feel We're going bad. To get some help to Mr. Buonanno. Sì. cerchiamo qualcuno che aiuti Bonanno. I feel bad, excuse me. No, ma che parola? Sì, è svenuto. Questo è lo svenimento in diretta di Bonanno con le telecamere del Parlamento Europeo. Ma sta bene. Chiamiamolo un attimo, chiediamo un po' se sta bene, scusa, chiamiamolo. Fermi, do il numero io qua, non vi agitate, mamma mia che agitazione. Adesso lo chiamiamo, fermi tutti. Sentiamo un po' come sta. Poi se ne andiamo a casa. Pronto? Gianluca? Sì? Come stai? Insomma, un pochino meglio. Ma dove sei? In ospedale, no? No, sono uscito dall'infermeria del Parlamento e niente, adesso sono a riposare. No, Parenzo, devo dire che non ha inferito. Abbiamo mi dispiace. Ha detto che ti dispiace. Dunque, momento di grande riconciliazione, no, causa, svenimento. No. Chiarisco che non è una captazione veramente nei confronti della causa che lui mi ha fatto e che va bene, ci vedremo in tribunale e lì battaglieremo. E non, quindi non chiedo di ritirare nulla. Perché ma no, ma che c'entra questo? Voglio dire subito che se no sembra che qualcuno poi chiama e dice: ah, ecco perché ha paura della causa. Un cazzo, ci vediamo in tribunale, magnifico. Ma quindi, lascialo parlare, perché... richiamalo un attimo, dai, richiamalo. Sei partito con la causa, ma che ce frega della causa in tribunale? No, tra tempo? Ma non me ne frega niente adesso. Ma qualche magari idiota che chiama. Ma perché devi anticipare quello che dicono perché gli altri? Gli idioti, ma lascia parlare Bonanno che stava male, no? Invece di sparare sulle cause, le cose in tribunale, che ce frega? Dai, Gianlu. Scusate, è andato giù la linea. Dimmi, che è successo? Come stai? Ma da che cosa è stata provocata sta cosa? No, io avevo un po' di febbre, poi stanotte ho preso la macchina, sono venuto su Strasburgo. A Strasburgo con la macchina di notte pure te, su. E poi insomma sono pieno di impegni e mentre stavo parlando Ma Schulz ci ha messo, non è che Schulz ci ha messo lo zampino, ti ha fatto innervosire, signor Schulz, no? Schulz mi ha convocato stamattina per la terza volta in 20 giorni. Se io sono un problema dell'Unione Europea siamo a posto. Vabbè, insomma, ho capito, stai bene? Ma no, adesso sono benissimo. Comunque, ma che t'hanno diagnostico? Domani... Che c'hai in sostanza? Mi è avuto un calo di pressione. Di pressione. Colpa di Schulz. Sì. Colpa di Schulz. Questo mi dispiace, ti sta curando un medico immigrato? No, tra l'altro bravissimo, uno belga e l'altro italiano. Vabbè, Schulz non c'entra niente. Schulz ci ha messo del suo. Schulz è più che fare il presidente, è fa il dittatore. Vabbè, però adesso non parliamo di politica, non è che ti ha fatto innervosire lui, no? Devi stare un po' antipatico, perché se mi chiamo ogni volta che prendo la parola in aula, adesso cosa mi chiamerà quando voglio il federale? Vabbè, dai. Ci sentiamo domani, speriamo che stai bene. Ringrazio anche. Allora, vogliamo dare l'annuncio a tutti. Sto meglio, sono uscito dall'infermeria. Bene. Dove cazzo sei? In albergo? Dove sei? Sì, sono in albergo. In albergo a Strasburgo. Tutto a posto, Tutto a posto, bene, tranquillizziamo bene. Tutti. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Parenzo, curalo Parenzo. Insomma, curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ciao simpatici asinoni, sempre asini ma simpaticoni. Radio 24, la passione si sente.